alla mia destra, sulla casa, una delle vecchie iscrizioni toponomastiche del quartiere, via Sante Vincenzi caduto per la liberazione, già via Derna, una delle vie della colonia italiana. Marciavamo con l'anima scalà, nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà, il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dire, il tuo nome di battaglia era Pini. Dopo la canzone del coro, volevamo un attimo parlare. Allora, dunque, ci siamo fermati qui perché abbiamo approfittato di un luogo importante per la Cirenaica per parlarvi della storia del rione. Non so se voi, cioè se molti di voi sono della Cirenaica e conoscono la storia del rione, però in pratica questo è uno dei luoghi più antichi in cui l'insediamento del quartiere si definisce e comincia a prendere forma a partire dal IX secolo a.C. E infatti sappiamo che gli Etruschi, cioè sappiamo che prima della città romana Bononia, sugli stessi luoghi insisteva la città etrusca Felsina, che si trovava in una zona un po' più centrale tra i fiumi Ravone e Aposa. Insediamento ancora precedente è quello invece che si trovava vicino al fiume Savena, che si trova a pochi passi di qui. E infatti uno degli insediamenti più antichi si trovava proprio in queste zone. È nel 1913 che durante gli scavi per la costruzione dei primi edifici dello IACP, che sono qui alle vostre spalle a sinistra, viene rinvenuto un sepolcreto denominato Sepolcreto San Vitale, che in pratica è quello che resta di quell'antico insediamento etrusco. Vengono rinvenute più di 800 tombe, 808, e in pratica noi abbiamo voluto raccontare la storia della Cirenaica a partire proprio da questo momento, perché abbiamo pensato che ricostruire la storia di una città è un po' raccontare la stratificazione che la città stessa accumula un pezzo alla volta durante il passaggio del tempo. E la storia della Cirenaica appunto si nutre di questo: da una parte le origini etrusche, dall'altro invece se noi ci fossimo trovati qui all'inizio del Novecento non avremmo trovato nient'altro che campagna, perché il centro della città si trovava poco distante qui di fronte. Ed è proprio qui, in un luogo diciamo senza qualità, tra due linee ferroviarie che creano un nucleo a sé stante, che si decide di spostare la città. Ed è proprio in queste zone che comincia a svilupparsi la prima periferia storica di Bologna, qui e alle spalle della stazione dove nasce il quartiere Bolognina. E dunque, lo IACP viene fondato nel 1906 e i primi edifici vengono costruiti nella zona di Via Libia nel 1912. Questi sono i primi luoghi in cui vengono scavate le fondamenta degli edifici IACP, che in pratica presentano delle caratteristiche comuni. Tutta la Cirenaica diciamo, ha un aspetto abbastanza omogeneo, ci sono grandi edifici a corte, proprio perché le cooperative che si sono occupate dell'edificazione di queste zone hanno agito più o meno negli stessi anni, a cavallo tra gli anni 10 e gli anni 30. Infatti già nel 1930 la Cirenaica aveva un aspetto molto simile a quello di oggi. E i protagonisti di questa storia sono proprio l'Istituto Autonomo delle Case Popolari e la cooperativa Risanamento. Allora, quindi da questo lato abbiamo l'ACER, ex IACP, come potete vedere. Da questo lato invece, sulla mia destra, quindi per chi mi sta guardando alla propria sinistra, vedete un edificio del Risanamento. E lì c'è un altro. Allora, il Risanamento nasce nel 1889 e si basa su un esperimento che già era stato portato avanti dalla società operaia. E, in quegli anni, diciamo, c'è una spinta anticlericale a Bologna che spinge la borghesia e i nobili a porsi come missione quella di innalzare la qualità di vita delle classi operaie, dei lavoratori. Però è chiaro che questa spinta nasce un po' appunto da una posizione alta che tende, che vuole, diciamo, in qualche modo rendere la vita più facile alle classi considerate più basse. E in questo contesto la cooperativa Risanamento inizia a edificare dei caseggiati di questo genere qui. Il primo insediamento del Risanamento qui in Cirenaica risale al 1911, con un edificio a L. Invece i caratteristici edifici che vediamo qui, che sono U e V, iniziano a essere costruiti nel 1913 ad opera dell'ingegner Tabarroni, che come potete vedere si è occupato anche della costruzione dell'ACER, ovvero il progettista era sempre lui, infatti un po' si assomigliano in qualche modo. Quali erano le caratteristiche di questi edifici, anzi della vita all'interno degli edifici? Intanto si trattava di proprietà indivisa, cioè le case non venivano vendute, venivano affittate a prezzi più contenuti e non potevano mai essere acquistate dalle persone che ci abitavano. I principi secondo cui il Risanamento operava erano quelli della... tendeva a formare l'individuo, oltre che dare le case ai meno fortunati, formava l'individuo, ovvero cercava di spingerlo verso un vivere comune civile, dignitoso, combatteva l'alcolismo, spingeva al bene comune, ecco. Però la realtà qual era? La realtà era che all'interno di questi edifici per un periodo ci sono stati pure i controllori, cioè c'era chi si occupava di controllare che chi abitasse lì rispettasse le regole, e questo non era, diciamo, un atteggiamento così improntato alla considerazione della classe operaia come in realtà loro sostenevano che fosse. Quindi la storia di questi edifici è un po' controversa, in quanto il Risanamento continua a dire di aver sempre operato per il bene dell'operaio, ma in realtà secondo me è un po' diversa. A voi l'interpretazione più corretta.